cosa, la giornata è sole, l'aria serena rotta una tempesta, quell'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa, una giornata e sole. Torce, spanne, campo.